Buonasera a tutti e tutti, se ci sediamo possiamo iniziare. Va bene. Allora, intanto benvenute qui al laboratorio Q16. Oggi incontriamo Rodrigo Núñez, pensatore contemporaneo e autore di un libro né verticale né orizzontale che tratta di organizzazione. Questa è non la prima, però una delle prime tappe più importanti, diciamo, dell'anno nel nostro ciclo anche di dibattito e presentazione che attraversa i nostri spazi a Q16, Casa Bettola e Città Migrante. E sono momenti che noi sfruttiamo per entrare anche nella discussione politica e per provare a darci strumenti sia di lettura ma anche strumenti pratici nel nostro promuovere iniziativa politica a partire ovviamente dai nostri spazi. Settimana scorsa a Casa Bettola abbiamo ospitato Valerio Renzi, con cui abbiamo parlato delle radici profonde della destra in Italia e in Europa. Oggi invece appunto affrontiamo il tema dell'organizzazione, un tema che, diciamo, pone a noi personalmente, ci pone tantissime domande da tantissimo tempo. È un tema, è una domanda sempre aperta che si pone ogni anno, ogni cambiamento anche spesso drastico, radicale della società in cui viviamo e con la quale ci rapportiamo. Abbiamo scelto di presentare questo libro in particolar modo, un po' approfittando del fatto che appunto Rodrigo sta girando tantissimo in questi giorni qui, e tante città, e abbiamo avuto la fortuna di intercettarlo e di poterlo invitare qui a Reggio Emilia, però lo facciamo andando anche un po' oltre di noi, nel senso che questa serata, diciamo, è coorganizzata Spazi Sociali di Reggio Emilia e Municipi Sociali di Bologna. Lo facciamo perché noi abbiamo iniziato a liare il nostro rapporto trentennale con le compagne e compagni di Bologna. Abbiamo iniziato proprio a interrogarci rispetto a come ci organizziamo, cosa vuol dire organizzarsi, cos'è, quali sono le caratteristiche di un'organizzazione e soprattutto come lo facciamo insieme, pur vivendo in città diverse e però affrontando comunque le stesse sfide. Quindi abbiamo pensato di fare questa intervista a due voci, io, Francesco, degli Spazi Sociali, e Ludovico, dei Municipi Sociali di Bologna. Parleremo con Rodrigo, ma abbiamo immaginato che fosse anche uno scambio con tutti voi che siete venuti qui stasera. Quindi faremo una prima introduzione carrellata di domande, diciamo così, ma lasceremo aperta la possibilità di poter fare domande, chiedere, interloquire con Rodrigo. Per entrare nel vivo di questo, non vi vogliamo spoilerare direttamente il libro perché c'è il banchetto, lo potete prendere e consiglio veramente di leggerlo. Io partirei subito, giusto per poterci orientare, facendo un po' una panoramica dei temi che hai trattato nel libro, quindi anche dei concetti che hai utilizzato per formulare il libro. Partiamo, diciamo, in maniera un po' così larga, però poi cercheremo anche di andare un po' nel vivo di alcune questioni, quelle che appunto ci interessa anche approfondire in questo momento qui, cioè nel momento in cui viviamo, dove sentiamo forte il bisogno di organizzarsi e farlo in modo efficace, farlo in modo attuale. Quindi speriamo, insomma, di provare a rispondere anche a alcuni quesiti o porci anche nuove domande tutte e tutti insieme. Quindi intanto, Rodrigo, cedo a te la parola. Io comincio da 9. Carrellata generale dei concetti che Prima di tutto, buonasera a tutti e tutte, e grazie tante a voi che avete, non so neanche chi sono tutti e tutti che sono stati coinvolti nell'organizzazione di questa sera. C'è un po'... io sono in giro già da 11 giorni, quindi sono abbastanza stanco, anche perché ho dovuto parlare in italiano tutti i giorni. Non è una cosa a cui sono abituato, è la prima volta che l'ho fatto nella mia vita, di fare passare di 11 giorni parlando l'italiano tutto il tempo, ma anche di fare presentazioni in italiano. Ma allora proviamo di parlare anche del libro. Come potete vedere, il libro parte da un'opposizione. È molto interessante che questa opposizione, l'opposizione che c'è nel titolo tra orizzontalismo e verticalismo, è interessante che questa opposizione non sembri di essere più la cosa più importante nella discussione. E questo forse ci segnala che siamo già in un altro momento, un momento che non è più quello a cui il libro fa riferimento più direttamente, che è il momento dell'inizio del decennio passato, del cosiddetto movimento delle piazze, ma è invece un momento che il libro anche prova di aiutare a fare nascere, che è proprio il momento della superazione di questa opposizione tra orizzontalismo e verticalismo, nel senso in cui possiamo dire che quello che io chiamo orizzontalismo, che non è la stessa cosa che orizzontalità, io faccio una distinzione tra le due cose, in cui l'orizzontalità viene definita come un desiderio di massima e la ricerca della massima simmetria possibile nei rapporti politici, mentre che l'orizzontalismo è il desiderio di assolutizzazione di questa idea, no? L'idea che non solo si deve cercare la massima simmetria possibile, ma che la massima simmetria, che una simmetria assoluta è possibile adesso, e che è proprio l'obiettivo più importante che dobbiamo cercare. Allora, io mi sono perso. Perché io aspettavo, infatti mi aspettavo una domanda più diretta, sì. Il momento di egemonia dell'orizzontalismo, questo atteggiamento patologico del desiderio di orizzontalità, che un desiderio assolutamente legittimo e, dobbiamo dire, assolutamente necessario per qualsiasi progetto che abbia voglia di essere o che si pensi come emancipatorio, perché questa simmetria nei rapporti di potere è una parte necessaria di qualsiasi cosa che possiamo definire come emancipazione, ma il periodo di egemonia di questa variazione patologica di questo desiderio che abbiamo chiamato l'orizzontalismo è nato dalla sconfitta di un modello anteriore, che è proprio quel modello che viene conosciuto come il modello verticalista, il modello, no, del 1917 e così via. E mi sembra che il punto di partenza per pensare che siamo già in un altro momento, siamo già al di là di questa opposizione binaria, è pensare che c'è nel decennio passato anche un momento di sconfitta, che non è più la sconfitta del 1917, non è più la sconfitta del modello verticalista, ma è la sconfitta dell'orizzontalismo, nel senso che agli indignados e così via, possiamo trovare lì le voci che dicono in queste piazze, in queste grandi assemblee, negli accampamenti in piazza, troviamo la cellula di organizzazione della società futura. È proprio questo si diceva in questo momento. E poi cosa succede con questa cellula di organizzazione della società futura? La prima cosa è che dopo qualche settimana rimangono soltanto gli studenti, perché nelle nostre società sono quelli che hanno più di tempo per esserci tutto il tempo in un'assemblea permanente, quindi chiaramente una cellula di organizzazione della società futura che ci domanda un tempo che non abbiamo oggi, quindi una cellula di organizzazione della società futura che non sembra poter funzionare nelle condizioni attualmente esistenti, e poi viene l'inverno e spariscono queste cellule di organizzazione futura. Quindi dico la sconfitta dell'orizzontalismo in questo senso, no? che diventa chiaro, credo, che neanche da lì si può partire, si può pensare che è possibile partire senz'altro per costruire un'altra organizzazione della società. E in questo momento è assolutamente vero che c'è una critica dell'orizzontalismo. Ma cosa ci dice la critica che c'è dell'orizzontalismo? È proprio: guarda, l'orizzontalismo non funziona, quello che dobbiamo fare è tornare al partito. E quando io parlo di un nuovo momento, che è allo stesso tempo un momento in cui credo che ci siamo già, ma anche il momento che io ho provato di contribuire a creare con questo libro, è perché c'è anche diciamo al lato di questa critica, che è proprio la critica verticalista all'orizzontalismo, c'è anche la gente che si domanda se è veramente necessario pensare che se non funziona A, l'unica soluzione possibile è non A, e no invece B, C, D e così via. E quindi mi sembra che quello che si apre con la da un lato c'è la stessa critica verticalista di sempre, ma dall'altro lato, e io provo di contribuire a questo, c'è il tentativo di pensare al di là di questa opposizione binaria. E mi sembra necessario indispensabile per poter andare al di là di questa opposizione binaria, spostare i termini della grammatica della cosiddetta questione dell'organizzazione, andare oltre la grammatica tradizionale, diciamo, della questione dell'organizzazione, nel senso che quella che mi sembra essere la grammatica tradizionale della questione dell'organizzazione è una grammatica che suppone che la questione dell'organizzazione è la ricerca della forma organizzativa ideale che deve avere una singola organizzazione, che forse tutte le organizzazioni devono, tutte le singole organizzazioni devono avere, e anche alla fine, no, la domanda qual è l'organizzazione che dovrebbe essere l'ombrello sotto cui sono tutti gli altri tipi e tutte le altre forme organizzative, ecco proprio la questione del partito, no? Che sarebbe questo punto di arrivo finale della questione dell'organizzazione, la singola organizzazione che sarebbe l'ombrello per tutte le altre. E come si fa questo? Come si può andare al di là? Il spostamento che io provo di fare, o il spostamento da cui questo libro parte, consiste in dire che prima di tutto l'organizzazione non è qualcosa che sia contenuta nelle singole organizzazioni, e questo è proprio qualcosa che possiamo vedere molto facilmente sia in quel momento dell'inizio del decennio passato, no? La primavera araba, Occupy, Dignados e così via, sia adesso in Italia con il movimento che è emerso nell'ultimo mese intorno alla questione palestinese, che è un movimento in cui ci sono delle organizzazioni che esistevano ormai, ci sono delle cose, no, esperimenti, forme pure sempre forse molto informali, informale, forme dell'agire insieme che neanche possiamo chiamare organizzazione, ma c'è anche i rapporti tra le diverse organizzazioni, c'è anche i rapporti tra gli individui che non appartengono a nessuna organizzazione e queste organizzazioni che esistono già, c'è un universo di rapporti che non sono contenuti nei confini di nessuna organizzazione, nessuna singola organizzazione, e tutto quello dobbiamo chiamare organizzazione. Quindi quello che si può vedere in questi momenti è che l'organizzazione è una cosa che si può dire non soltanto delle singole organizzazioni, ma di un'ecologia che esiste intorno a queste organizzazioni, che esiste tra individui che non appartengono a nessuna organizzazione, eccetera, eccetera. Quando quando noi ci rendiamo conto che l'organizzazione non è così contenuta nelle cosiddette organizzazioni, il tipo di domanda che si fa cambia, perché adesso non c'è la questione della forma ideale, neanche io credo neanche ha senso, perché si pensiamo che l'organizzazione è una cosa che esiste sempre già all'interno di un'ecologia, un'ecologia sarà sempre già plurale nei suoi diversi gradi, no? Dal più informale e temporario al più formalizzato e permanente, nei suoi tipi, nelle sue forme organizzative. E queste forme, questi tipi, questi livelli esistono perché esistono per rapporto a obiettivi, a risorse, a condizioni che sono necessariamente diverse. Quindi la pluralità è sempre là. E adesso la questione non è più qual è la forma organizzativa ideale che deve prendere una singola organizzazione, ma diventa quali sono i rapporti ecologici che ci permettono di fare politica insieme, forse a partire o sempre forse a partire dalle nostre organizzazioni, ma senza pensare che la nostra organizzazione debba essere l'insieme della la totalità, diciamo, dell'azione politica, no? Questo si vede molto bene all'inizio, per esempio, del processo che abbiamo visto in Italia nell'ultimo mese, quando i portuali a Genova e poi il suo sindacato dicono sciopero generale, noi blocchiamo qui il porto, ma poi ognuno organizza la sua parte del sciopero come può o come voglia, e non c'è, quindi il sciopero sarà questa contribuzione collettiva senza chi ci sia. C'è la direzione, c'è il leadership, nel senso che senza questa iniziativa di dire no, facciamo il sciopero in questo giorno, non ci sarebbe niente, ma allo stesso tempo quelli che hanno preso l'iniziativa, quelli che hanno occupato questa posizione di leadership in questo momento, quelli che hanno fatto, che hanno giocato il ruolo di quello che io chiamo nel libro la funzione vanguardia all'interno dell'ecologia in questo momento, loro non provano di essere la totalità dell'ecologia. Invece quello che loro fanno è: abbiamo tutte queste risorse, abbiamo tutte queste potenzialità che vengono dalle diverse realtà che esistono già e che possono venire a esistere, perché anche, no, in questa iniziativa, l'iniziativa è sempre anche in un senso creatore di ecologia, perché proprio crea rapporti nuovi, no? C'è gente nuova che viene in piazza, ci sono rapporti che si creano che non esistevano prima e così via, quindi l'iniziativa sempre è già anche una creazione dell'ecologia. L'ecologia non è una cosa statica che si possa declinare con i nomi delle organizzazioni che esistono, no? L'ecologia è proprio, si chiama proprio così, perché è una cosa viva di rapporti che si creano, ma allora l'organizzazione non prova di essere la totalità, ma invece di proporre una strategia che possa funzionare all'interno di questa totalità, di questa ecologia, che è già là, ma allo stesso tempo anche che si crea nel processo precisamente di rispondere a questa iniziativa. E in questo senso anche, io mi fermo questo primo intervento qui, in questo senso anche non c'è più nessun senso a parlare di una scelta tra orizzontalità e verticalità, perché all'interno dell'ecologia ci sono già necessariamente le due cose, non soltanto nel senso in cui ci sono, o nel senso che ci sono organizzazioni che si definiscono piuttosto come, o che noi li definiamo piuttosto come verticali o orizzontali, no? Ci sono i sindacati, ci sono i partiti, ma anche ci sono gruppi che forse non sono organizzati né come sindacati né come partiti, ma noi possiamo guardarli e descrivere come verticali o come più verticali di noi, o più verticale di quello che ci piacerebbe. Ma allora, non soltanto nel senso in che c'è già questa pluralità di tendenza di tendenze, no, più verso l'orizzontalità o verso la verticalità all'interno della ecologia, ma anche nel senso in che nel suo proprio sviluppo l'ecologia ha bisogno di queste due tendenze e anche di questi momenti sia di verticalità sia di orizzontalità, no? Per riprendere l'esempio della formazione di questo movimento intorno alla questione palestinese, c'è la verticalità della convocazione che fanno i portuari, che fa il sindacato quando dice questo giorno sciopero generale, no? Chi gli ha dato un mandato per fare così? Nessuno, non c'è un mandato, proprio perché all'interno di un'ecologia non c'è un processo di presa di decisione che si possa declinare a... Allora, un momento di verticalità, ma allo stesso tempo, in questo stesso momento di verticalità che si esprime in questa iniziativa senza mandato, senza nessuna autorizzazione preesistente, allo stesso tempo c'è, no, un richiamo che dice ognuno fa questo sciopero alla sua maniera, ognuno partecipa alla sua maniera e fa di questo movimento quello che pensa che è meglio o che può fare, e è proprio in questo senso anche che quando passiamo da pensare, quando smettiamo di pensare la questione dell'organizzazione come se fosse la ricerca di una forma organizzativa ideale e passiamo a pensare come rapporti di forze che esistono sia all'interno delle organizzazioni, sia tra le organizzazioni, sia tra individui e organizzazione, cioè all'interno di una ecologia, neanche c'è senso più di parlare di una scelta tra orizzontalismo e verticalismo, tra orizzontalità e verticalità. Le due cose ci sono già, e le due cose sono proprio, come si vede perfettamente bene in questo esempio del caso italiano dell'ultimo mese, le due cose sono assolutamente necessarie per il funzionamento di una ecologia, perché un'ecologia possa proprio funzionare come un agire collettivo, un agire insieme. Io avevo detto che mi fermavo e adesso sì, mi fermo. Allora, grazie Rodrigo. Io prima di farti una domanda vorrei partire con una cosa, cioè secondo me il vero merito di questo libro, più che appunto come diceva Rodrigo prima, proporre una forma organizzativa che non è affatto l'obiettivo del libro, perché cerca proprio di uscire da questa dicotomia e quindi dire non esiste una forma organizzativa perfetta, ma dobbiamo pensare l'organizzazione politica complessiva in termini di ecologia di tante organizzazioni diverse. Secondo me il grande merito di questo libro è quello che è un libro prima di tutto di formazione politica. Cioè penso sia un libro che chi inizia a fare politica o chi già fa politica dovrebbe leggere innanzitutto per questo motivo, perché oggi è vero quello che dice Rodrigo, che c'è una critica che va avanti da tempo per i fantasmi del Novecento sul verticalismo, che oggi c'è una critica anche sull'orizzontalismo. Quello che però vediamo soprattutto dalle più giovani generazioni è una ricerca quasi spasmodica, lo vediamo nelle assemblee che facciamo, dell'orizzontalismo. Ricerca spasmodica dell'orizzontalismo che però non riesce a definire cosa orizzontalismo è. Cioè, mi è capitato di partecipare ad assemblee dove il messaggio che diciamo si voleva far passare era che l'orizzontalismo fosse il fine dell'assemblea, ma che se ogni persona all'interno dell'assemblea avesse definito orizzontalismo gli sarebbero date 10 definizioni diverse. E questo ci fa capire come mai questo libro è un libro importante di formazione politica, perché inizia a chiarire dei concetti che oggi si utilizzano come fine della propria azione politica, ma in realtà dovrebbero essere dei mezzi dell'azione politica, senza però nemmeno avere un'idea chiara di cosa questi concetti rappresentano. Quindi l'orizzontalismo, e questo è uno dei primi meriti del libro, che viene visto come fine a cui l'assemblea deve tendere, che spesso conduce a forme di inazione, perché quello che fa un'organizzazione politica non è tanto cercare dotarsi dei mezzi per raggiungere gli obiettivi politici che si vogliono raggiungere, ma raggiungere il fine dell'orizzontalismo, e quindi per raggiungere il fine dell'orizzontalismo ci si condanna all'inazione. E quindi innanzitutto iniziare a pensare l'orizzontalismo e le forme organizzative come un mezzo e non un fine è un primo passo molto importante. Il secondo è quello dello spontaneismo, che in Italia soprattutto nell'ultimo mese è tornato a essere molto importante nel dibattito, perché si è visto che quello che è successo con gli scioperi generali, soprattutto in alcune città dove c'è stata un'eccedenza molto importante, una disponibilità al conflitto di molte persone molto notevole, è stato derubricato sotto appunto la categoria dello spontaneismo, portando a critiche alle forme organizzative standard a cui siamo abituati, forme organizzative appunto spaziano da partiti, sindacati, centri sociali, associazionismo eccetera. Quello che si è detto dopo quelle giornate è stato esattamente questo: lo spontaneismo ha ecceduto ogni cosa e le organizzazioni sono in crisi. Quello che ci dice Rodrigo invece è una cosa diversa, cioè non esiste qualcosa che sia effettivamente spontanea, semmai si può parlare di qualcosa che sia più o meno organizzato, perché una cosa spontanea è una cosa che viene definita oggi spontanea è per sua natura organizzata. Nel momento in cui delle persone scendono in piazza sono di fatto organizzate, quindi non si tratta tanto di un processo spontaneo, etero-organizzato, auto-organizzato, si tratta più che altro di dotarsi di strumenti che diano più o meno organizzazione. E questo oggi, proprio visto quello che è successo nell'ultimo mese, è un elemento fondamentale da tenere in considerazione, che chiarisce molti aspetti. Rodrigo poi riprende anche diciamo, i padri dello spontaneismo, Bakunin, Malatesta, eccetera, facendo vedere che anche in loro lo spontaneismo non è quello che viene inteso oggi, ma richiede comunque una determinata organizzazione perché si possa dispiegare. E sempre sullo spontaneismo, una cosa molto importante che dice Rodrigo è che e sulla necessità di decidere se essere più o meno organizzati è quasi il fatto che se si cerca di seguire gli eventi per come si danno naturalmente, questa è la retorica a cui spesso si assiste, è come se ci togliessimo la responsabilità di far accadere quello che vogliamo far accadere nel mondo. E questo penso che sia il vero significato dell'organizzazione, cioè determinare nel mondo i cambiamenti che vogliamo vedere nel mondo. Invece lo spontaneismo, e quindi un elemento di sempre minore organizzazione possibile per ascoltare quello che le masse vogliono, come se tra l'altro si sapesse quello che le masse vogliono spontaneamente, una cosa che non è possibile, conduce esattamente a questo, riuscire a non assumersi la responsabilità di determinare determinati cambiamenti, ma lasciare che quasi con un comportamento fideistico questi si verifichino. E però quello che stiamo vedendo oggi nel mondo è esattamente il contrario, cioè sconvolgimenti sociali che quindi producono un'energia collettiva, che però come questa energia collettiva si sprigiona non è necessariamente in direzione della nostra parte, non è che se ci sono sconvolgimenti sociali, disuguaglianze sociali che aumentano, cambiamento climatico, l'energia collettiva che si sprigiona va necessariamente verso la nostra parte, può andare anche verso l'altra parte, ed è esattamente quello che sta succedendo oggi. Quindi l'organizzazione è fondamentale perché consente di incanalare tutta questa energia che si sta sprigionando verso la nostra parte, invece assumere che spontaneamente finirà verso la nostra parte è declinare la responsabilità che invece noi abbiamo, e oggi stiamo vedendo i risultati di questo. E qui vengo alla domanda, cioè vorrei cercare di diciamo calare sul pratico e vedere come la teoria di Rodrigo, e quindi non di definire quale forma organizzativa è migliore dell'altra, se un sindacato, se un partito, se un centro sociale, ma ragionare dell'organizzazione in termini di ecologia organizzativa, pensata quasi come rete, di modo che ogni organizzazione dovrebbe comportarsi per favorire il miglioramento dell'ecologia nel suo complesso. Questa, bene o male, è la teoria dell'ecologia dell'organizzazione di Rodrigo, e la vorrei appunto diciamo sottoporre a una verifica di efficacia rispetto a quello che è successo nell'ultimo mese in Italia. Cioè abbiamo vissuto penso due settimane che si possono definire rivoluzionarie per quanto abbiamo visto sugli scioperi, perché non sono stati soltanto degli scioperi che hanno portato le persone in piazza e quindi all'astenersi dal lavoro, ma hanno visto le persone mettere in campo delle pratiche che fossero delle pratiche di conflitto radicale, che andassero a colpire gangli dell'economia come porti, aeroporti, stazioni, autostrade, eccetera. Quindi veniamo, diciamo, da questo periodo che possiamo definire come un periodo di movimento che è durato per due settimane e su cui ora ci stiamo interrogando su come poterlo portare avanti, però penso che qui possiamo mettere a verifica il concetto di Rodrigo. E quello che abbiamo visto è che per come è andata questa settimana effettivamente le organizzazioni si sono comportate, chi più chi meno, come un'ecologia. Cioè si è avuto proprio per, a partire dallo sciopero generale unitario, una cosa che in Italia è stata storica, cioè l'indizione di uno sciopero generale della CGIL con i sindacati di base, dove tutte le parti hanno lavorato per far sì che ciò che venisse amplificato, oltre al diciamo alla propria identità politica, ma soprattutto fosse il miglioramento dell'ecologia nel suo complesso, quindi esattamente ciò che Rodrigo descrive come ecologia dell'organizzazione. Però quello che vediamo che sta succedendo ora è un cambiamento. Vediamo che già sindacati di base hanno indetto uno sciopero sul 28, per il 28 novembre, ci sono organizzazioni che stanno cercando più che altro di capitalizzare politicamente quanto successo, e quindi questo funzionamento dell'ecologia organizzativa, che sembra essere andato bene in questo periodo rivoluzionario che abbiamo vissuto, ora è come se si stesse in parte sgretolando. E quindi quello che mi sembra di poter dire a partire da questa situazione è che l'ecologia organizzativa, per come immaginata da Rodrigo, è funzionata in un momento di esondazione, di eccedenza dovuta a tante cause, tra cui la flottiglia, ma che ora non ci interessa approfondire, penso. Però nel momento in cui questa eccedenza si sta almeno momentaneamente ritirando, questa ecologia organizzativa inizia a funzionare di meno. E quindi, a partire da questo, non è proprio una domanda, però una considerazione, magari può stimolare anche il dibattito dopo, e non so cosa ne pensi. Grazie Ludovico. Sì, io devo dire, prima di tutto, devo dire che io sono molto felice di essere in Italia in questo momento, perché è la prima volta io sento che il libro esce quando c'è un contesto per questo libro, perché quando il libro è uscito 4 anni fa, in inglese c'era il Covid, quindi nessun contesto. Poi 2 anni fa è uscito in Brasile all'inizio del nuovo governo Lula, nessuno voleva parlare di movimenti, perché no, c'è stato un ricatto fortissimo dal PT contro i movimenti in Brasile, che no, si parliamo di movimenti, si movimenti si muovono attorno alla destra. Quindi nessuno voleva parlare di movimenti, nessun contesto. E proprio io assolutamente non mi aspettavo, neanche credo voi, ma sono nato in Italia in questo momento e c'è il contesto perfetto, anche addirittura il contesto perfetto forse in cui ha funzionato, in cui hanno funzionato le ipotesi del libro, e anche forse, magari no, ma speriamo che no, ma forse anche il momento in cui queste ipotesi non funzioneranno. Io quando una parola in italiano ha più di, non so, 6 sillabe, io comincio a pensare che non può essere vera. E questo è proprio interessante, perché questa domanda mi è arrivata già, no, io da 11 giorni che faccio questo giro, e questa domanda mi è già arrivata, non so, forse 3 volte, quello che ci dice anche qualcosa, forse purtroppo, di come hanno cambiato o cambiano le aspettative intorno a questo movimento, e a volte anche questa domanda mi arriva un po' in senso quello che non avevi capito quello che tu non sapevi quando hai scritto il libro, è che all'interno di un'ecologia ci sono sempre quelli che ci rompono i coglioni. E io voglio credere che non sono così ingenuo, anche perché ho ho trovato tanti di questi che ci rompono i coglioni nella mia vita, che io proprio non sfortunatamente non ho potuto essere così ingenuo, ma è molto è proprio molto conveniente, non so, che ci sia una situazione così, perché questo mi dà l'opportunità di spiegare un po' o chiarificare un po' in più qual è il progetto del libro. Alla fine, quello che il libro prova di fare è presentare di una certa, in un certo modo, quella che sarebbe, che potrebbe essere, quello che potrebbe essere il funzionamento ideale di una ecologia. Ma è il funzionamento ideale, descrivere il funzionamento ideale non avviene dall'aspettativa che le ecologie possono veramente funzionare in questo modo ideale, o funzionare ai suoi livelli ideali, diciamo, ma descrivere l'ecologia nel suo funzionamento ideale descrivere quali sono i limiti, quali sono i rischi, quali sono i trade-offs. Massimo, aiutami, come si può dire trade-off? In portoghese, trade-off. Allora, in italiano credo che sia trade-off. Costo di opportunità, non so, è questo. Comunque non... vuol dire, no? Dove sono le scelte che dobbiamo fare, che non sono mai, e questo è proprio il senso di parlare in trade-off, non sono mai scelte binarie, invece sono scelte sempre tra più o meno. Allora, quello che io volevo fare con il libro è un po' una mappa di come può funzionare un'ecologia, dove sono i rischi, dove sono i limiti, dove dobbiamo essere attenti, e così via. Poi, sì, la gente vuole continuare a fare cazzate, io ho fatto la mia parte, non c'è... Non c'è nulla che io possa fare, perché no, quello che il meglio che si può fare è proprio provare di fare questa mappatura, di offrire ai movimenti un po' questa comprensione, esiste? No? Sì, di come può funzionare una ecologia, e anche promuovere le attitudini che sono più compatibili con questo funzionamento ideale. Ma poi che ci sono sempre quelli che provano, precisamente a un momento come questo in cui siamo adesso in Italia, che ci sono sempre quelli che provano di portare tutto a casa sua, sì, questo forse sia inevitabile, sfortunatamente è inevitabile, non c'è niente che un libro possa fare con questo. Quello che il libro può fare invece e dire anche agli opportunisti che ci sono modi migliori di essere opportunista. E il libro è a suo modo anche un po' un encomio, diciamo, dell'opportunismo politico in un senso veramente italiano, cioè venuto da Machiavelli, no? E nel senso di virtù, della virtù politica, a il tipo di opportunismo che possiamo vedere, per esempio, in questa situazione, no? Quando i portuari, quando il sindacato prendono questa iniziativa, vedono qui c'è un'opportunità, no? che viene da una risposta quasi, no, naturale di sentirsi portato al limite del nostro senso di giustizia e anche compassione con quello che succede adesso in Gaza, che è anche un sentimento molto condiviso, ma anche un'opportunità proprio che ci arriva dell'economia, della tensione con tutti i suoi problemi, ma no, in questo senso la flottiglia è un esempio buonissimo di politica fatta a partire dalla economia della tensione a, no, tutta questa opportunità. Loro vedono l'opportunità e la prendono, e auguri, io penso che è proprio così che si fa la politica, con questo tipo di senso di opportunità, con questo tipo di opportunismo. Io scrivo anche perché, come diceva Ludovico, uno dei problemi, forse il problema più grande dell'orizzontalismo, è che l'orizzontalismo non risulta soltanto in una paura dell'organizzazione, ma anche in una paura della iniziativa. La stessa iniziativa diventa sospetta? Sì. E quello in questo senso il libro è un encomio dell'opportunismo per dire: non si fa politica senza iniziativa, non si fa politica senza il senso di opportunità, senza la virtù. Ma l'opportunismo, se uno si fa, e specialmente mi sembra in un momento così, no, quando c'è tantissima gente nuova che viene in piazza, quando ci sono tante opportunità, tante potenzialità che non sono ancora neanche sperimentate, provare di portarsi a casa quel poco che si è riuscito a creare ancora, e dico poco comparato al tanto che può essere ancora, si permette a questa ecologia di svilupparsi senza provare di fermarla tra i confini di questa o quella organizzazione, o di portarla di qua o di là, nel senso, no, di una impostazione politica ferma. Allora, se si prova a fare questo senza permettere a questa ecologia proprio di svilupparsi, proprio di sperimentare, di fare, e questo è l'altro senso dell'encomio dell'opportunismo, è proprio un contro l'idea tradizionale dell'avanguardia che c'è stata legata da una filosofia della storia che ci diceva che la storia, un processo deterministico che cammina in una sola direzione, e allora essere avanguardia è provare di occupare il punto più avanzato di questa singola linea su cui cammina la storia, mentre che io invece dico una singola linea non c'è. La storia non è un processo deterministico, la storia è un processo che viene precisamente creato dalla sperimentazione politica. Quindi essere avanguardia non è occupare una posizione in una linea, anzi è esercitare una funzione in un momento dato, come no, come hanno esercitato i portuali in questo momento della nascita di questo movimento. Allora sì, se pensiamo le cose in questo senso, il senso stesso di quello che vuol dire opportunismo cambia, e non è più l'opportunismo di provare di a fare la propria organizzazione, ma diventa proprio l'opportunismo di provare di creare ecologia. Senza, io capisco perfettamente che anche ci sono, no, le organizzazioni hanno i suoi bisogni, devono anche alimentarsi di nuovi militanti e così via, ma alla fine si spostiamo i termini del problema dell'organizzazione, passiamo a pensare in termini ecologici, alla fine dobbiamo sempre pensare la politica, apparteniamo, bravo io. Se noi apparteniamo a un'organizzazione, dobbiamo pensare alla politica sempre con un doppio senso di fidelità. Fidelità? Fedeltà, no? Fedeltà. Allo stesso tempo, fedeltà alla nostra organizzazione e fedeltà all'ecologia. E la cosa più importante è proprio sapere quando i fini, gli obiettivi, il benessere dell'ecologia deve essere sovrapposto a quello della nostra organizzazione. E questo proprio, forse si dobbiamo dare una formula ultima di quello che sarebbe pensare la politica in modo ecologico, sarebbe proprio questo: sapere quando gli interessi dell'ecologia devono essere sovrapposti agli interessi della nostra organizzazione o ai nostri interessi personali. Grazie Rodrigo, grazie anche Ludovico. Hanno detto niente spoiler, ma hai rischiato quasi, cioè hai tirato fuori tante cose che però mi permettono di fare una domanda che un po' esula dal libro in realtà, però proprio in questo scambio che avete avuto voi due mi è venuta in mente una cosa. Tu nel libro analizzi alcuni movimenti, o meglio, più che analizzare i movimenti utilizzi per la tua ricerca analisi dei momenti di movimento. Quindi hai parlato per esempio appunto primavere arabe, in realtà vai anche più indietro, nella storia per esempio italiana, ovviamente Genova, eccetera, eccetera, le accampades e così via. E a un certo punto quella roba lì finisce però, perché quel movimento lì a un certo punto finisce. Quindi la mia domanda è anche questa, e lo dico anche rispetto al fatto che noi abbiamo attraversato momenti, anche noi abbiamo attraversato quei momenti lì, magari ora se ne affaccia un altro che potrebbe essere potrebbe essere che nasce da queste settimane che abbiamo avuto, può essere anche che cambierà forma nonostante le tre settimane, mese che ha avuto. La domanda è questa: quali sono le caratteristiche poi di un'ecologia organizzativa laddove per esempio il movimento non c'è, nel senso funziona solo se c'è movimento, può essere rivolto solamente ai movimenti? Anche lì tu giustamente nello spiegare la tensione tra verticale e orizzontale, che nel libro sono scritti orizzontale e verticale, no? Nel titolo, però poi parli di verticalismo, orizzontalismo, potremmo aggiungerci una terza parola che è movimentismo in questa tensione, che può far ricadere in vari errori, no? Come dicevi, quindi se il movimento non c'è, i movimenti non ci sono, sia come struttura sia come momento, no? Finisce l'ecologia organizzativa? Quali sono le caratteristiche che invece magari permettono di comunque continuare a pensare e comunque riconoscere la virtù e utilizzare e praticare la virtù con un fine, e quindi porsi il problema di realizzare quel fine? C'è anche un'altra cosa che io devo dire rispetto alle conversazioni che ho avuto in Italia su questo libro, e che anche queste conversazioni sono state abbastanza diverse, credo, da quelle per esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, perché, ebbene, per due cose. Primo, che voi italiani anche siete bravi, leggete tanta teoria politica, leggete anche con tantissima attenzione a questo libro, per fare domande che sono proprio precise, ma anche perché, no, si facciamo per esempio un paragone tra Italia e Inghilterra, perché anche nei posti dove tutti mi dicono che sì, qui non ci accade niente da 10 anni, 15 anni, 20 anni, anche in questi posti c'è già un livello di infrastruttura, di infrastruttura fisica, infrastruttura organizzativa, di ecologia proprio, che in Inghilterra è assolutamente impensabile. Forse non ha esistito in Inghilterra in un momento, ma forse non esisterà mai più. Sì, questo è il caso, io spero non essere più in Inghilterra. Ma anche questo cambia, perché no, io sono stato in questo giro, io sono stato in posti dove c'era un'ecologia piccola, di organizzazione piccola, erano posti, erano, no, città piccole, ma ricchissima, un'ecologia ricchissima di gente bravissima che fa tantissime cose, e che poi io posso pensare che loro guardano il libro e pensano: ma questo tizio ci dice che quello che dobbiamo avere è un'ecologia, ma un'ecologia, no, che se abbiamo un'ecologia tutto andrà bene, ma poi noi abbiamo un'ecologia già e non va bene, allora siamo proprio fottuti, no? Questa era nostra, forse la ultima speranza di qualcuno che ci dicesse che c'era qualcosa d'altro ad aspettare non c'è, è solo quello che abbiamo già e chiaramente non è la soluzione. E questo mi ha fatto pensare che è proprio necessario chiarire una differenza tra un'interpretazione, diciamo, statica del concetto di ecologia e una interpretazione dinamica del concetto. Ovviamente un'ecologia le due cose allo stesso tempo, è proprio, no, pensare che in momenti come questo che voi vivete adesso in Italia, pensare che c'è organizzazione da fare e dire bisogna approfittare di momenti così per creare cose che possono anche rimanere nel tempo. E poi c'è, no, proprio per questo in Italia, in tantissimi posti, c'è un lascito storico, no, di cose che vengono, i circoli arci, le case del popolo, cose che vengono dagli anni 40, 50, poi, no, un lascito dell'area dell'autonomia degli anni 70, così via, un lascito ricchissimo che, no, ha prodotto questa infrastruttura, questa ecologia che esiste sul posto. Ma poi c'è anche l'ecologia, dobbiamo pensare anche all'ecologia come processo dinamico, come un processo proprio che si crea e si ricrea continuamente in questi momenti come quello, no, che si ha, che ha emerso nell'ultimo mese in Italia. E da una parte parlare di fare organizzazione è anche precisamente pensare a cosa fare quando questi momenti dinamici non sono lì. E in questi momenti quello che si può fare è, no, provare a mantenere l'infrastruttura che c'è, mantenere quello che si può fare con questa infrastruttura che c'è, ma anche essere preparato, provare di essere preparato per quando arrivano i momenti, no? Arrivano i momenti di movimento, come hai detto, ma poi anche provare di creare questi momenti, no? Non è soltanto fare infrastruttura, non è soltanto fare la politica quotidiana, ma è anche pensare alla strategia, e pensare alla strategia anche pensare alla strategia anche ecologicamente, no? Se non possiamo fare, sì, quello che abbiamo di infrastruttura, quello che abbiamo in termini di organizzazione non è sufficiente per fare quello che pensiamo che si può fare in termini strategici, allora dove sono le risorse? Con chi possiamo, o su chi possiamo contare? Quali sono le proposte che possiamo fare che possono essere ricevute da quelli su chi noi dobbiamo contare per fare a quello che pensiamo sia necessario e anche possibile in questa situazione. E questo libro è proprio, e questo è interessante perché io non ci avevo mai pensato, ma è vero, è qualcosa che è venuta fuori qui in Italia, in questa conversazione, che è un libro che è stato pensato interamente per i momenti dinamici, anche se quando parla di organizzazione parla pensando cosa fare quando i momenti dinamici sciolgono. Quando i momenti dinamici si sciolgono. Ma finalmente, no, io provo di pensare sempre all'ecologia in questo senso dinamico, dell'iniziativa, delle strategie, creare ecologia, l'ecologia nel momento della sua nascita. Ebbene, no, la vita dei movimenti sarà sempre questa vita, no, di ebb and flow. Io so la parte del riflusso. Qual è il contrario di riflusso? Flusso. marea, sì, marea e riflusso. La vita dei movimenti è sempre questa vita di marea e riflusso. C'è un senso in cui possiamo dire che i movimenti muorono sempre, e per la vita, per i movimenti, come per gli organismi, possiamo dire la stessa cosa. Il meglio che possiamo aspettare è di ritardare la morte quanto sia possibile, e poi anche essere preparato bene, questo non accade proprio per gli organismi, ma sì, invece sì, i movimenti, essere preparato per i momenti, no, dopo il riflusso, quando quello che si può fare è proprio fare l'ecologia in questo, all'interno di questo lascito dei momenti anteriori, ma farlo sempre pensando da dove possa venire il prossimo momento, da dove possa venire, e provando sempre di creare, di sperimentare con quello che possa essere un nuovo punto di ricomposizione, un nuovo punto di dinamizzazione e di creazione anche di una nuova ecologia, no? Un'ecologia che non sarà più questa del lascito dei momenti anteriori, ma anche una nuova creazione di rapporti, una nuova creazione di organizzazione, di obiettivi politici, di politicizzazione, di formazione politica e così via. Tu hai altre domande vuoi fare? Un'altra domanda, però... Allora... Facciamo prima la tua e poi dopo, chiunque, direi, se ci sono domande, le apriamo a tutti. Però intanto io... Allora, più che una domanda, è una considerazione che magari esce un po' anche dai binari del libro, però insomma penso sia importante ragionare anche su questo. Sempre restando sull'attualità, un ragionamento che stiamo facendo è che se noi vediamo, soprattutto in Italia, le ultime ondate di movimento che abbiamo avuto, da Friday for Future alla marea transfemminista a questa nuova sulla flottiglia, vediamo che forse il ruolo dei movimenti sociali, per come storicamente lo abbiamo conosciuto e studiato, è cambiato, cioè dall'assunto operaista per cui il capitale si ristruttura a partire dalle lotte e dagli avanzamenti delle lotte, il 68 per esempio e il decennio degli anni 70 può essere un esempio, arriviamo a una situazione in cui ora, pur avendo movimenti che possono essere di massa e movimenti che possono esondare, Friday for Future è un esempio incredibile di questo, a fronte di tutto questo quello che si determina, restando nel caso ad esempio del cambiamento climatico, sono le emissioni che continuano ad aumentare toccando ogni volta nuovi record. A fronte del movimento per la Palestina in Italia vediamo per esempio ora una legge, un decreto legge in discussione per diciamo silenziare le proteste, ma più in generale, al di là di questo esempio, che forse non è nemmeno il più corretto, però quello che possiamo vedere è che nonostante queste forti ondate di movimento c'è un continuo avanzamento delle destre e degli autoritarismi. Quindi nonostante quest'onda che ciclicamente torna, che non possiamo prevedere perché la flottiglia era imprevedibile, così come Friday for Future era imprevedibile, che sono stati movimenti veramente di massa, nonostante ciò non sono stati ottenuti avanzamenti come storicamente eravamo abituati a considerare gli avanzamenti. Ovvio che ogni movimento sociale porta avanzamenti nella misura in cui soggettiva politicamente molte persone e in mille altri aspetti, però non quegli avanzamenti che storicamente siamo stati abituati a considerare come avanzamenti. Sì, io vi giuro che adesso rispondo molto brevemente. Io dovevo avere detto che io ho questo problema in italiano, che ci vuole sempre il doppio del tempo per spiegarmi in italiano che in portoghese o in inglese. Ancora più si parla così all'improvviso. Ma sì, io penso che forse questo libro sia, io non penso che questo cambi l'ipotesi del libro o le tesi del libro, ma io penso oggi che forse questo libro sia un po' allo stesso tempo che appartiene a un momento nuovo, diciamo, rispetto al pensiero organizzativo, almeno così mi aspetto, ma forse anche appartiene a un altro momento politico, perché io penso che una delle più grandi lezioni dell'ultimo decennio forse sia che noi siamo adesso in un momento storico in cui il sistema politico è molto abituato a funzionare in situazione di bassa legittimità. Quello che vuol dire che ci vuole una forza politica, non vuol dire che non siano possibili i movimenti, ma vuol dire che ci vuole una forza politica ancora più grande per fare muoversi il sistema politico. Io non so se è stato tradotto l'ultimo libro di Michael Hartz in italiano, sì, che si chiama, è una espressione che lui riprende dai movimenti degli anni 70, compresi i movimenti italiani degli anni 70, che è la fine della mediazione, che è proprio, no, la forma come questi movimenti, alla fine dalla metà degli anni 70, registravano, si può dire, sì, registravano un cambio che è precisamente la nascita del neoliberismo, no? È la forma come il neoliberismo è fino in fondo un encasement, è la parola che utilizza Quinn Slobodien, è una forma di scatolamento di proteggere l'economia dalla politica, e proprio perciò, no, rappresenta un momento in cui i meccanismi tradizionali di mediazione politica che avevano funzionato fino a quel punto non funzionano più. E io penso che è possibile che noi siamo adesso in un momento che è ancora a un'accelerazione di questo processo, no? È la fine della mediazione come il sequel degli anni 70, e questo quello che sì questa valutazione è corretta, allora dobbiamo pensare quello che questo può significare in termini sia di organizzazione sia di obiettivi politici. Io credo che, per esempio, quello che si è fatto qui in Italia nel mese passato, che non era soltanto scendere in piazza, ma che era bloccare i porti, che era bloccare il flusso del capitale, questo mi sembra proprio molto più che quel tipo di movimento che esisteva nel decennio passato. Questo mi sembra forse molto più adeguato per questo momento storico. Bene, come premesso la parola anche a voi, insomma, per interloquire sia rispetto al libro sia rispetto comunque alla chiacchierata che abbiamo avuto fino ad ora. Sì, io mi chiamo Mario. Intanto volevo fare un breve scurso sulla storia dei movimenti a Reggio. Storicamente faccio presto e faccio la domanda. Reggio storicamente, no, perché per arrivare al momento di adesso bisogna parlare anche di quello che è stato. Reggio storicamente, nei momenti che ce n'era bisogno, ha sempre saputo mettersi insieme e far fronte alle problematiche mettendo insieme tutti quelli che erano sulla piazza, quindi movimenti, associazioni, eccetera, eccetera. È successo nel 91, prima guerra del Golfo, nel periodo dei social forum negli anni 2000, ed è successo in questi mesi qua. In questi mesi qua, questi mesi qua sono stati preceduti da almeno un anno dove abbiamo fatto delle cose insieme, tutte le associazioni, lavorando in quei termini qua, con un certo tipo di ecologia, cioè, rispetto al decreto sicurezza abbiamo collaborato tutte le associazioni, ricordiamocelo bene, e siamo andati a Bologna, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi questo tipo di lavoro a Reggio è sempre stato fatto e ha lasciato dei lasciti, e io penso che le cose lasciano dei lasciti se fanno delle cose pratiche. Il 91 ha lasciato un grande lascito, secondo me, che è stato quello della nascita dei sindacati di base. Io c'ero e mi ricordo bene che sono nati i sindacati di base. Successivamente tutti i momenti storici hanno lasciato delle cose che hanno portato a degli avanzamenti, ma su cose pratiche, non su cose teoriche. E arrivo alla domanda che ti volevo fare, che è questa qua. Io oggi mi sono letto la prefazione, la recensione che fa Moresco sul tuo libro, che è uscita una settimana fa, e in cui lui accenna al fatto che tu in questo libro analizzi poco il rapporto di questi movimenti, di questa cosa che tu chiami ecologia, rispetto alla forma, allo Stato e ai media. E adesso, tra l'altro, mi fai un ragionamento che è rimasto lì in sospeso, che c'è bisogno del grande partito, se ho capito bene, di un partito più forte. Allora io ti chiedo, se mi sviluppi un attimo questo discorso qua, che Moresco ha letto il tuo libro e dice che è abbastanza vago, e ti lascio in sospeso fra il fatto che tu dici il governo non ha più potere, ma il potere in mano ai portatori di valore, quindi alle multinazionali, e quando l'hai scritto nel 2021 era meno evidente, ma chiaramente alle piattaforme digitali, e poi dici nell'altro senso che invece la politica cioè viene comunque ammazzata da questi, e porti come esempio la Grecia. Quindi mi piacerebbe che tu chiarisci un po' queste dinamiche qua, che di cui hai parlato poco anche stasera, che però sono fondamentali, perché non siamo nel nulla, siamo in un paese che si chiama Italia, c'è un governo di destra, e in tutti gli stati ci sono dei governi, soprattutto di destra in Europa, e quindi non possiamo far finta che noi siamo le anime belle, ma siamo in una dinamica che deve tenere conto di quello. A me interessa molto che a votare ci vada poca gente, e questo è successo. Quindi secondo me il lascito che c'è stato anche nel passato è che la gente si è rotta i coglioni e non va a votare. Per me questo è molto importante. Grazie. Ne raccogliamo un paio. Sì. Allora, intanto grazie per il libro che hai scritto, e lo trovo molto coraggioso, perché va a toccare dei temi che, al di là della critica all'orizzontalismo, il parlare di leadership non è una cosa banale. Cioè il fatto della leadership, un concetto di leadership che si espande, io lo ritrovo molto molto importante, perché in un'ecologia abbiamo bisogno di leader a tutti i livelli, se si vogliono fare le cose. Io faccio parte di Ultima Generazione e mi sto trovando moltissimo con le cose che scrivi, perché c'è nell'ecologia di movimento, ci siamo dentro, stiamo collaborando tantissimo, l'abbiamo sempre fatto, ma ci stiamo rendendo conto sempre di più di quanto questo sia importante. Per esempio, ieri sera abbiamo fatto una formazione sulla azione diretta non violenta con gruppi pro Palestina, con 60 partecipanti, ci sono state richieste formazioni legali, e stiamo ragionando proprio in questa cosa di nuclei che possono fornire delle cose che siano utili. Stiamo ragionando anche su un cambio di strategia, quindi il leggere le cose che trovo nel tuo libro, a parte che mi risuonano moltissimo, mi sembrano veramente molto utili. Stiamo facendo una specie di lettura collettiva, diciamo. Ecco, tornavo su due punti. Uno è stato accennato prima da Ludovico, quello del come si fa in un'ecologia di movimento in cui non tutti hanno questa logica collaborativa, ma si va a fare campagne acquisti. E quando parlava di opportunismo, penso fosse questo che intendeva, cioè cercare di togliere persone ad altri movimenti per mobilitare nel proprio. E questo è un aspetto. L'altro è stato toccato prima, ed è quello del partito. Anche questo è un tema coraggioso, cioè quando parli del partito e lo consideri come una delle possibilità, uno degli elementi che può far parte dell'ecologia di movimento, questo è una cosa che non è banale da dire, e ci vuole un certo coraggio. Ecco, io trovo, da quello che ho letto, mi sembra che tu conosci bene la situazione politica italiana, quindi la domanda che ti faccio è: come te lo immagini questo partito? Cioè, è qualcosa che nasce direttamente dal movimento, è qualcosa di preesistente? Io questo faccio fatica ad immaginarlo, ma che caratteristiche deve avere? Cioè, come deve essere organizzato, che rapporti deve avere rispetto al movimento? Un'idea ce l'ho, mi piacerebbe sentire, in base a quello che sai tu dell'Italia, cosa vedi da questo punto di vista. Grazie. Facciamo rispondere, poi ne raccogliamo un altro giro, giusto? Sono due domande belle piene, se ti va bene. Allora, grazie. Sulla recensione che ha fatto Andrea Moresco, con cui io ero due giorni fa a Pisa, io devo dire che naturalmente non sono interamente d'accordo con lui, che non ho parlato dello Stato delle medie, ma è vero che ci potrebbe essere in più, e comunque è un libro già abbastanza grandino, se deve dire, quindi io non potevo fare comunque tutto, purtroppo. Ma c'è anche, e allora io penso, e c'è anche, diciamo, c'è questo, che io non potevo fare tutto, è anche una questione di ecologia del pensiero, nel senso che io penso che ci sono, c'è gente che è molto più capace di pensare la dimensione dello Stato che io, e anche per questo non l'ho fatto tanto nel libro, ma ci sono due cose importanti qui sul progetto, allo stesso tempo teorico e politico, del libro. Da una parte io ho scritto il libro così perché mi sembrava che c'era tantissimo da fare, parlando soltanto di organizzazione, in un senso che io dico nell'introduzione del libro: si vogliono accusare di formalismo, io accetto volentieri l'accusazione, nel senso che mi sembrava che c'era tanto da parlare in questo livello che io ho scelto per pensare, che era parlare dell'organizzazione in una relativa astrazione dei suoi fini, dei suoi obiettivi, e anche dei suoi obiettivi, che io penso che era comunque giustificato farlo così, ma anche perché se io voleva fare un libro che ci permettesse di pensare e agire ecologicamente, fare la politica ecologicamente in più, doveva anche essere un libro in un certo senso vuoto nel suo centro, perché se io ci mettesse la mia idea, la mia strategia di quello che dobbiamo fare, allora sarebbe un libro per creare la mia ecologia e non un libro a cui ognuno potessi portare i suoi idei, le sue strategie, e così via, e pensare l'ecologia anche, no, all'interno di pensare l'ecologia della sua maniera all'interno di questo libro. Ma finalmente c'è l'ultimo motivo, che è, secondo me non possiamo pensare, e questo ci conduce a ancora una volta alla questione della fine della mediazione. Non possiamo pensare il rapporto con lo Stato senza pensare le condizioni in cui o sotto cui possiamo avere sufficiente forza per fare la leva. E quindi perciò io volevo pensare l'organizzazione, perché io volevo pensare come creare queste condizioni per fare la leva per rapporto allo Stato. E anche per questo ho lasciato un po' di lato la questione dello Stato. E anche la questione delle media, che è qualcosa su... Io adesso, un mese fa, io lavoravo proprio su questa questione, un testo che diventerà un capitolo di un libro che esce in inglese l'anno prossimo, sulla destra, propriamente, che è qualcosa che in Brasile io ho scritto una grande parte del libro mentre c'era la campagna presidenziale in Brasile nel 2018, l'elezione di Bolsonaro in Brasile. Ho deciso di non parlare dell'estrema destra perché c'era già tantissimo nel libro e non c'era più tempo, ma adesso faccio questo, adesso parlo molto di più dello Stato e anche forse specialmente delle media. Una parte nel libro in cui io parlo abbastanza dello Stato è proprio la parte in cui io discuto l'idea del partito, no? E la forma come si ha posto la questione del partito, non so, diciamo dagli anni 90, e mi sembra proprio essere legataria di questa grammatica tradizionale della ricerca della forma ideale, perché finalmente la questione diventava sì, il partito o i partiti devono esistere o no. Io parto da un punto interamente diverso, che è dire, prima di tutto, i partiti esistono. Possono essere buoni o cattivi. Se sono cattivi, noi possiamo pensare come provare di farli buoni o almeno meno cattivi. Ma allora, no, la prima cosa è i partiti esistono e questo basta perché siano parte dell'ecologia o delle ecologie che esistono. È importante che siano parte delle ecologie che esistono perché c'è una funzione che viene svolta dai partiti, che è una funzione che la forma partito è proprio la forma organizzativa che è pensata, che è stata creata per svolgere, che è proprio il rapporto con lo Stato, che è proprio il passaggio alle istituzioni. Questo passaggio all'istituzione crea sempre necessariamente dei problemi, perché c'è un'ecologia sana e un'ecologia che non sia interamente centralizzata all'intorno sia di un movimento sia di un individuo, un leader individuale, sia di un partito e così via. E c'è necessariamente in questo passaggio all'istituzione una forza centripeta, no? Che è, primo, se noi distribuiamo i nostri voti tra 20 partiti, questi partiti diventano molto meno utili per noi, perché non vincono mai, ma anche, no, le necessità di strategia elettorale e così via, tutto questo crea una tendenza necessariamente centripeta, e perciò questo rapporto è un rapporto che sempre suppone rischio tra i movimenti, i partiti. Ma ancora una volta, no, come per il rapporto a movimenti partiti, come per l'ecologia, come per gli organismi, il meglio che si può aspettare è di ritardare la morte, cioè di fare a che questa tendenza di centralizzazione eccessiva all'interno del partito, che vuol dire che il partito diventa sempre più autonomo per rapporto all'ecologia e perciò anche meno permeabile, quello che si può aspettare è di ritardare questo processo. Per quanto riguarda, no, i partiti che esistono in Italia o dove sia, è sempre molto difficile a dire qualsiasi cosa, perché, no, un esempio chiarissimo mi sembra è quello del Labour in